Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, la trasmissione che quotidianamente vi accompagna a quest'ora, se la state ascoltando alle 6.45, o se invece la state ascoltando in replica, sapete che andiamo alle 20.45. Ricordo subito la mail alla quale scrivere, unabusoalgiorno@radio24.it. Mi raccomando, casi che siano generali e che non rappresentino soltanto casi personalissimi, di quelli non mi posso occupare. Ebbene, ne abbiamo uno di un radioascoltatore, Vinicio Di Battista, che ci scrive e qual è il suo tipo di lamentela. Dice: non riesco ad entrare in contatto con una compagnia telefonica che, a mio giudizio, e poi lo sentiremo, è intervenuta abusivamente impedendomi il mio collegamento a DSL. Questa persona ha una impresa commerciale, non è certamente facile lavorare in queste condizioni. E io do il buongiorno e il benvenuto al nostro radioascoltatore Vinicio Di Battista. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Di Battista, può raccontarci che cosa è successo? Qual è la compagnia telefonica e che tipo di attività lei svolge? Allora, io sono un amministratore di una gioielleria in un Montorio Romano in provincia di Teramo. E malauguratamente nei primi giorni di agosto di quest'anno sono venuto a contatto con un rappresentante di British Telecom, una compagnia telefonica, che mi ha proposto un contratto per l'uso della DSL. E io ho valutato sommariamente la proposta che mi faceva, mi era parsa interessante, e ho chiesto a questo rappresentante che avrei dovuto approfondire un po' la cosa e comunque avrei avuto bisogno di una consulenza tecnica, perché con il sistema DSL c'è un software particolare che mi consente di collegare il sistema di videosorveglianza della gioielleria con la centrale di vigilanza. Quindi, insomma, lei ha preso tempo per pensarci? Sì, ho preso tempo. Il rappresentante mi ha detto comunque che la firma, cioè che era, insomma, la firma del contratto non avrebbe comportato problemi, perché avevo comunque 15 giorni di tempo per recedere. Nel frattempo lui avrebbe fatto avere questa consulenza tecnica per capire se questo sistema poteva funzionare con allora lei un contratto lei un contratto l'ha firmato, Di Battista? Allora io l'ho firmato, ecco. Sì. Allora lei ha firmato il contratto. Però voglio precisare questo. Il giorno successivo, avendo poi approfondito un po' meglio le cose, mi sono reso conto che sostanzialmente non c'era un grande vantaggio. E quindi ho formalizzato prima con una telefonata al call center della British Telecom, e in giornata, quindi il 7 di agosto, ho fatto una raccomandata a British Telecom dicendo che non avevo intenzione di dare seguito a quella richiesta. Ecco, mi scusi, una domanda preliminare. Lei ha firmato il contratto e ha spedito la successiva raccomandata come consumatore, diciamo, come Vinicio Di Battista, per in veste di amministratore della sua gioielleria? Come gioielleria. Benissimo, questo è importante specificarlo, e poi più tardi scopriremo probabilmente perché. Allora, questo è il suo racconto. Veniamo ora alla controparte. Come sapete, chi segue questa trasmissione sa che io non do mai la parola alla persona, diciamo così, che tra virgolette accusa di aver subito un abuso, ma da buon giornalista e da radio imparziale quale siamo, chiamo sempre la controparte, a meno che la controparte non decida di intervenire, ed allora si parla soltanto con chi denuncia il caso. Ma British Telecom, rappresentata dal responsabile delle relazioni con i media, ha accettato di parlare con noi, ed è per questo che io do il buongiorno e il benvenuto a Carlo Ridolfi. Buongiorno Ridolfi. Buongiorno a voi. Allora, com'è la situazione vista dalla parte di British Telecom Italia? Fino adesso diciamo che non si discosta molto da quello che ha raccontato il cliente, nel senso che il giorno 6 di agosto è stato sottoscritto un contratto e il giorno successivo è stata formalizzata una un recesso da questo contratto. Quindi ecco, però lui dice che la pratica è in lavorazione da metà agosto, siamo ormai a novembre inoltrato, allora, rimane senza linea e con disagi, denuncia sempre allora, il nostro radioascoltatore. E da questo punto di vista? Premesso che ovviamente il periodo di agosto ha creato qualche ritardo nella, diciamo, attivazione del recesso e nell'attivazione stessa del contratto. C'è da dire questo, che il 9 di settembre siamo intervenuti presso il cliente per predisporre l'installazione dell'apparato e il cliente, forte del recesso inviato il giorno 7 di agosto, ha sostanzialmente fatto presente al tecnico della società terza che svolge per conto nostro le installazioni che aveva già inviato una disdetta e quindi non voleva assolutamente procedere con l'installazione. Ecco, però mi pare di capire che voi volete onorare questo diritto di recesso del radioascoltatore, del consumatore, diciamo così, di Vinicio Di Battista, e quindi assolutamente sì, ecco, nel senso che il giorno successivo il tecnico ha sostanzialmente coinvolto la parte commerciale, quindi l'agenzia, per capire se questa installazione andava fatta o meno. L'agenzia si è messa in contatto con noi e abbiamo deciso, seguendo le indicazioni e la volontà del cliente, di non procedere all'attivazione del servizio. Quindi parola di British Telecom Italia, a breve finalmente. No, quindi lui di fatto non è stato staccato dalla Telecom, nel senso che la sua numerazione è pur sempre rimasta in... Quindi a suo giudizio non ci sono più disagi né altro? Carico a Telecom. Il problema è che il disagio si viene a creare nel momento in cui probabilmente questa richiesta Telecom aveva sospeso il servizio, convinto che la richiesta da parte noi subentravate, insomma, che noi subentravamo. Di contro noi invece non siamo andati avanti in questa richiesta, rispondendo sostanzialmente a quello che erano le indicazioni del cliente. Morale, la numerazione è tuttora, penso, disponibile in casa Telecom. Ecco, morale lo dico a Paolo Landi, al quale do il buongiorno e il benvenuto, segretario generale della Diconsum. Morale, il nostro radioascoltatore, chissà quanti come lui, per guai, disagio o quant'altro con le compagnie telefoniche di ogni genere, razza e provenienza, si trova senza collegamento a DSL. Certo. Allora spieghiamo due cose importanti, cercando di fare sempre un discorso di carattere generale. È chiaro, anche in questo caso, come dire, essendo un contratto che viene sottoscritto in questo caso da una gioielleria, bisogna sempre fare attenzione, perché il diritto al ripensamento, questo diritto che entro 10 giorni posso annullare un contratto senza alcuna penale, questo vale se il contratto è riferito al consumatore. Se è riferito ad un'impresa, ad un artigiano, ad un commercio, questo diritto la legge non lo prevede, il che non significa che non possa essere applicato, ma legalmente, certo, come dire, non c'è. Certo. British Telecom lo ha riconosciuto, quindi voglio dire, ecco. Ecco, per cui se lo riconosce, secondo ragionamento, in questi casi che cosa succede? Quando io passo ad un nuovo operatore, il nuovo operatore comunica a Telecom che quel cliente è passato da loro. Automaticamente viene fatto il distacco della linea da Telecom, cioè il numero viene mantenuto, ma il collegamento con Telecom non c'è più. Ed è quello che è successo. Ed è quello che è successo. E per ritornare allora ad avere un collegamento Telecom, il nostro radioascoltatore deve fare cosa? Deve scrivere a Telecom. Deve richiedere di tornare a Telecom, gli viene mantenuto il numero che non mi sembra che sia stato ancora speso, però deve ripagare l'allaccio a Telecom. Ecco, e questo è, come dire, nel bene o nel allora, male. In questo caso, come dire, mi sembra una cosa però, che il BC Telecom abbia fatto in modo tempestivo il disallaccio da Telecom, perché se lui ha fatto immediatamente, certo, dire, la lettera, mentre successivamente non si è comportato in modo così tempestivo. Ecco. Però il consumatore deve sapere che nel momento in cui chiede di ritornare a Telecom, può eventualmente denunciare, come dire, British Telecom per eventuali, ma per un non rispetto del contratto, ma non mi sembra in questo non caso. È questo il non caso. È questo il caso. E se vuole tornare a Telecom, è chiaro che deve pagare il riallaccio a Telecom. Bene. Questo purtroppo sono le norme attuali. Bene, allora noi abbiamo saputo e capito qualcosa di più sulle annose vicende che riguardano i rapporti tra i cittadini, consumatori e imprese e le compagnie telefoniche. Grazie a British Telecom anche per la sua chiarezza, grazie a Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum, al nostro radioascoltatore Vinicio Di Battista e Roberto Galullo, nel ringraziare in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Faggin, vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.